sulle panchine dei giardini, succhiano fili d'aria, un vento di ricordi, il segno del cappello sulle teste da pulcini. I vecchi mezzi ciechi, i vecchi mezzi sordi, i vecchi che si adannano alle bocce, mattine lucide di festa che si può dormire, gli occhiali per vederci da vicino a misurare le gocce, per una malattia difficile da dire. I vecchi tosse secca che non dormono di notte, seduti in pizza al letto a riposare la stanchezza, si mangiano i sospiri e un po' di mele cotte. I vecchi senza un corpo, i vecchi senza una carezza, i vecchi un po' contadini che nel cielo sperano e temono il cielo, voci bruciate dal fumo e dai grappini di un'osteria. I vecchi, vecchie canaglie, sempre pieni di sputi e consigli, i vecchi senza più figli e questi figli che non chiamano mai. I vecchi che portano il mangiare per i gatti e come i gatti frugano tra i rifiuti, ossa piene di rumori e smorfie versi un po' da matti. I vecchi che non sono mai cresciuti, i vecchi anima bianca di calce in controluce, occhi anacquati dalla pioggia della vita. I vecchi soli come i pali della luce, e dover vivere fino alla morte, che fatica. I vecchi cuori di pezza, un vecchio cane e una pena al guinzaglio, confusi inciampano di tenerezza e brontolando se ne vanno via. I vecchi invecchiano piano con una piccola busta della spesa, quelli che tornano in chiesa lasciano fuori bestemmie e fanno pace con Dio. I vecchi povere stelle, i vecchi povere patte sbottonate, guance rasposte arrossate di mal di cuore e di nostalgia. I vecchi sempre tra i piedi, chiusi in cucina se viene qualcuno, i vecchi che non li vuole nessuno, i vecchi da buttare via. Ma i vecchi, i vecchi, se avessi un'auto da caricarne tanti, mi piacerebbe un giorno portarli al mare, arrotolargli i pantaloni e prendermeli in braccio tutti quanti. Sedia, sedio, oggi si vola, e attenti a non sudare.